vuoi venire a morire? A stornellare, porta del vino e metti di a sedere. Puntata numero 15 di Ratto di Campagna, Topolino di Città, il programma di Radio Big World che dalla campagna, dall'orto, dal fiume, dal torrente delle lavandaie vi porta direttamente in città, laddove girano i macchinoni, le donne con le pellicce, tacchi alti che sembra un matrimonio continuo e in realtà è la vita di tutti i giorni di quello che avviene laddove la modernità arriva e che fa da polo per mode e comportamenti. La città più vicina, di cui in qualche modo siamo satelliti, sia storici sia politici, è Firenze, almeno per noi valdarnesi, almeno per noi del contado intorno a Firenze. E io, che del contado sono, poco vi direi di quel mondo che ho visto solo in cartolina. Pertanto abbiamo alzato la cresta e abbiamo contattato direttamente chi vive nel comune di Firenze, proprio vicino alle mura serviane, se fossimo a Roma, e è colei che ormai conoscete, che mentre noi ancora selezionavamo i cereali selvatici in Medio Oriente, lei aveva già geneticamente modificato il mais. Laura! Buonasera a tutti, ciao carissimo. Oggi, Laura, l'argomento è scottante. E è bellissimo l'argomento. Fiorentino, fiorentinissimo, e cioè la Fiorentina. La Fiorentina, la squadra di Firenze, i viola, come affettuosamente vengono chiamati sui giornali, perché hanno, al giornalista gli serve trovare dei sinonimi. La Fiorentina, Laura, è la tua squadra. Ma certo, è una domanda? Comunque è una domanda retorica forse, ma certo che è la mia squadra. Come si fanno ad essere fiorentini a Firenze? E come è stata la tua esperienza da tifosa? Come hai cominciato? Come l'hai vissuta questa tua passione per la Fiorentina? Allora, guarda, è bellissima la mia storia da tifosa, perché sono partita da tifare contro la Fiorentina e ti dico perché. Mio babbo mi portava allo stadio. Ero veramente piccola, penso che prima di andare alla scuola elementare sono andata allo stadio e mi divertivo, sai perché? Perché vedevo tutti questi signori di mezza età, per non dire un po' anzianotti, a cui si gonfiava la vena e si arrabbiavano come matti quando la Fiorentina perdeva o quando si prendeva gol o quando qualcuno giocava male. E io ero estasiata più che dai giocatori, da queste scene di panico degli spettatori. Guarda, perché a volte più che in curva i tifosi, quelli più appassionati, si nascondono in mezzo alla tribuna, no? Andavo lì e dicevo: babbo, ma io mi diverto se perde la Fiorentina, guarda quello come si è arrabbiato, guarda quello è diventato tutto rosso, o guarda quello si è messo anche a piangere. E quindi ti favo contro. Però è durata poco, eh. Poi ho acquisito il lume della ragione e sono diventata una tifosa viola a tutti gli effetti. E ho anche il ricordo delle mie lacrime quando andammo in Serie B, ero alle scuole medie, di veramente piansi, lacrime amare. Così come piansi quando Battistuta se ne andò, perché finì un ciclo, insomma, gli anni migliori. Che poi dopo la maratona io ho iniziato ad andare in curva Fiesole, sono stata per una quindicina di anni abbonata. Ho già trovato un argomento su cui sono veramente ferrata, vai, chiedimi ciò che vuoi. Parleremo dello stadio e della vita da stadio e da ultras probabilmente in un altro episodio, perché meriterebbe una trattazione specifica, però tanti sono i temi legati alla Fiorentina e in particolare grande è la curiosità perlomeno di noi provinciali, di capire come in città si vivono certe passioni. Alla fine le passioni che viviamo noi qui in provincia sono al massimo di serie D, proprio la serie C di tanto in tanto, la serie A praticamente di continuo, escluso fallimenti, insomma qualche debacle, però sono casi rari a Firenze. A Firenze i risultati della squadra. Allora, parliamo di noi in provincia, di Montevarchi. Qui c'è una tradizione di pallone comunque che sta tra il dilettante e il poco professionista, cioè la Serie C, però è una passione che in qualche modo prende tutto il paese, tanto che ci sono delle vecchiette che gliene frega praticamente zero, non solo del calcio ma del mondo intero, gli interessa solo la telenovela della sera, però la domenica chiedono che cosa ha fatto in Montevarchi, oppure usava un tempo mettere fuori dai bar le bandiere, due bandiere se Montevarchi aveva vinto, una bandiera se aveva pareggiato, zero bandiere se se Montevarchi aveva perso. Un sacco di gente andava a vedere quelle bandiere, persino i miei genitori che di calcio se ne fregavano come le vecchie, insomma loro guardano i polizieschi, però è più o meno la telenovela loro. A Firenze succede lo stesso, e cioè persone che non gliene frega nulla, però della Fiorentina in qualche modo gli interessa. Sì, la Fiorentina è parte della città, quindi anche se te del calcio te ne importa poco, che ha fatto la Fiorentina, insomma, si domanda. Io quando tornavo dallo stadio in motorino spesso incontravo gente, mi vedeva con la sciarpa, no? E mi chiedeva, mi fermava, diceva, scusa, ma si è vinto o si è perso? Erano sicuramente persone anche abbastanza disinteressate al calcio, però in quanto cittadine di Firenze, insomma, avevano piacere se la Fiorentina vinceva. Addirittura un mio amico interista che venne da Milano a trovarmi alla vigilia di una partita e vide tutte le bandiere, respirò una certa atmosfera, no? Mi disse, ma qui a Firenze siete proprio fissati, ma era detto da uno che il calcio lo seguiva, cioè non un estraneo al mondo del pallone. Mi disse, ma noi insomma per l'Inter sì, vabbè, tifiamo, ma alla fine cioè tutta questa, anche la preparazione a una partita, l'argomento della domenica è quello, dai, anche chi non sa neanche cos'è un fuorigioco, però ama sapere che la squadra della propria città quel giorno gioca e magari vince, o tu dirai magari perde, però insomma quello è un dettaglio. Alti e bassi e alti e bassi sono tipici un po' di tutte le squadre, in particolare ci sono partite, tornei, impegni sportivi che si vincono e altri che si perdono. E in qualche modo sempre noi nella nostra misura più pecoreccia, questo tipo di risultati influenza poi l'umore generale addirittura del paese, tant'è che quando fummo eliminati ai playoff qualche anno fa c'era una rabbia in giro che persino le vecchiette al mercato tiravano fuori il mattarello e picchiavano i venditori. Oppure... ma vedi, tutto il mondo è paese, alla fine è così anche in scala maggiore perché siamo più grossi, diciamo, ma è così anche qua. Oppure questi giorni il Montevarchi ha raggiunto la salvezza matematica e si notava in giro gente che sorrideva e che stava serena e che c'era più voglia di fare festa. Questa cosa anche a Firenze? Sì, guarda, abbiamo vinto una Coppa Italia, sembrava avessimo vinto lo scudetto, cioè veramente siamo stati tutta la notte a festeggiare a Piazzale Michelangelo. Questo è il mio ultimo ricordo di un trofeo vinto, però vabbè, quando vinciamo contro la Juve è per noi il nostro piccolo scudetto, no? Quindi tu ricorderai forse l'eco delle nostre gesta sarà arrivato fino a Montevarchi nel sì. 2013, se non mi sbaglio, a ottobre vincemmo 4-2 con la Juve, allora insomma, ma poi ascolta, così come ci lamentiamo anche eccessivamente, insomma, quando iniziano i dispiaceri, però ci esaltiamo facilmente anche per piccole imprese come la vittoria con la Juve. E devi sapere che quando eravamo secondi in classifica all'inizio campionato di un paio d'anni fa, c'è chi stampò dei gadget con la classifica, anzi delle tazze con la classifica impressa, così per ricordarci che eravamo primi forse in quel momento, se no la tazza sarebbe stata anche troppo. Però ecco, siamo così, siamo entusiasti, peccato che molte volte il nostro entusiasmo viene un po' così ridimensionato. E veniamo dunque al core business della faccenda, cioè di essere tifosi della Fiorentina e dalle mie parti o per quello che riguarda me, la curiosità c'è e ce n'è molta, e in particolare questo. Parliamoci francamente, la Fiorentina non vince praticamente una ciaspola dai tempi di quando probabilmente era ancora vivo Gian Gastone dei Medici, e gli esempi sono sotto gli occhi di tutti, non è solo un problema di classifiche, pensiamo ai vostri più forti giocatori, un po' stanno a Firenze e poi se ne vanno, e Batistuta e Baggio, tanto per dirne due, se addirittura c'hai pianto. Qui c'è una frazione che si chiama Baggio, ai tempi gli avevano pure fatto la B e che si leggesse Baggio, poi quello chiaramente è andato alla Juve. Il discorso che più mi colpisce è questo: ma come si fa a essere tifosi di una squadra che non vince mai niente? Oh, ascolta, guarda, non mi offendere, questa è una domanda da... non lo so, da, sì, da provinciale come tu sei, devi capire che non si sceglie, cioè, come dire, come ti fai a innamorare di una che è brutta e povera? Eppure l'amore è cieco, è così. No, non è brutta e povera la nostra Fiorentina, la nostra Fiorentina è bellissima. Il problema è che l'ultimo scudetto l'abbiamo vinto nel 69, ma c'era Mario Ciuffi, che era un giornalista un po' anzianotto, che purtroppo adesso è morto, ma lui diceva che sognava questo terzo scudetto, no? Il primo nel 57, il secondo nel 69 e il terzo Mario Ciuffi non l'ha potuto vedere, speriamo lo possa vedere io, che insomma qualche anno davanti spero di potercelo avere ancora, ma chissà. E come si fa? Si fa perché ci nasci con questa passione, dai, la respiri l'aria della Fiorentina quando esci a Firenze, quindi a meno che tu non voglia fare l'alternativo e decidere di fare Sampdoria, come qualcuno che conosco, allora tifi Fiorentina per forza. E poi invece noi ribaltiamo la domanda e diciamo: ma come fai a tifare? Ma che gusto c'è a tifare con una squadra che vince sempre, no? Una vittoria piccola per noi ha un sapore di grande vittoria, mentre per voi che gusto c'è? Io, cioè, per esempio lo direi, ora è uno juventino, ma che noia, cioè, state vincendo 5-6 campionati a fine, ma insomma, ma anche basta, cioè, che noia, vuoi mettere la gioia che avremo noi quando vinceremo il terzo scudetto? Bizzarramente, ma questa è proprio la ragione che il mio nipotino di 5 anni adduce per il fatto che è diventato tifoso della Fiorentina, con padre in buona sostanza juventino. Io premetto per chi... no, premetto, dico a chi ascolta che non seguo la Serie A, io sono abbonato del Montevarchi, ho i colori rosso-blu e preferisco la Lega Pro quando mi capita di seguirla, e in questo momento preferisco i dilettanti e la Serie D, quindi non mi tocca il fatto di essere bianco-nero, blu-celeste, rosso-verde o giallo-rosa. D'altra parte, anche tu, insomma, ci hai ricordato la storiella della tazza, molto interessante, e è molto interessante perché le speranze dei fiorentini sono effettivamente di dimensioni gigantesche. È un caso che è sotto gli occhi di tutti, ormai i giornali sono digitali, andate a controllarlo. Quando all'inizio del campionato, insomma, è facile fare qualche punto e essere in cima alla classifica, e alla Fiorentina gli è capitato varie volte di esserlo le prime 4-5 giornate, titoloni sui giornali, già si pensa allo scudetto, c'è chi prenota i biglietti per la Champions League, e se succede che a ottobre la Fiorentina è sempre tra le prime 5, c'è chi ordina lo champagne, chi prenota le mignotte, insomma, è un... È vero. Descontrol, e poi che succede? I risultati sono sempre gli stessi. E ma poi si rischia la Serie B, però vabbè, dettaglio. Ma com'è che è così, Laura? È così. Oh, te l'ho detto, noi siamo fatti così. Entusiasti anche troppo quando c'è da essere moderatamente entusiasti, e anche troppo disfattisti quando c'è da dispiacersi, ma insomma nemmeno esageratamente. È perché è così, dai, nella nostra indole. Ma capiscici, noi siamo appassionati, siamo speranzosi, perché altrimenti non continueremo a tifare, no? La passione è tale che vi fa esagerare. Esatto. Anche quelli che vanno tutti i giorni a guardare gli allenamenti, ai campini. Insomma, pensate che passione hanno. Ce n'è, diciamo anche questa: a Firenze ci sono regolarmente delle persone che stanno fuori di casa dei giocatori e che li seguono per andare a vedere dove vanno. Anche. Infatti, in tempi in cui la Fiorentina aveva giocatori allegri, si sapeva vita, morte e miracoli di quello che facevano, dove andavano e a che ora tornavano. Esatto, quando poi prima mi ha chiesto anche chi non è tifoso, poi comunque la segue anche indirettamente la Fiorentina. In questa categoria si mette anche tutte le ragazzine che solo perché il calciatore è bello vanno lì all'allenamento, si fanno fare l'autografo, poi magari cercano anche di uscirci, insomma, poi ora chi ci riesce o meno non lo so, però c'è tutto, sì, un mondo parallelo. E nella piccola città come Firenze, cioè grande per voi, ma insomma piccola magari rispetto ad altre realtà, è abbastanza facile anche incontrare il calciatore o riuscire ad avere il suo numero di telefono. E ci sono ragazze che conosco che, insomma, grazie ad una costanza invidiabile sono riuscite anche a uscire con qualcuno dei calciatori più, anche più noti, anche negli anni d'oro della Fiorentina, ora non mi fa far nomi. Un'altra bizzarria, probabilmente legata alla vostra passione, secondo me è questa. A Firenze, per vincere questa vittoria chimerica, è sempre necessario fare un cambiamento e prendere qualcun altro. I casi sono tantissimi, a volte è un giocatore come fu ormai al tempo di Gomez, oppure è un allenatore, quello del Basilea, se non veniva lui Firenze si sarebbe ribellata, avrebbe battuto bandiera panamense, oppure ai tempi di Cecchigori, quando la Fiorentina l'avevano i Pontello, per Firenze si leggeva Fiorentina è da signori, non Pontello, Cecchigori. E poi che cosa è successo? Sempre lo stesso. Adesso si ha bisogno di risultati, incredibile, ma com'è? Ma... Guarda, ora ti riattacco in faccia, le memorie magnare cittadine verranno meno se non la smetti, perché sei tifoso del Montevarchi, ovvia. No, beh, è vero, dai, prima o poi arriverà anche il nostro momento, dai, ci crediamo. Si passa da un viva Pontello a un Pontello boia, speriamo tu muoia, ecco, queste sono le scritte sui muri che ho osservato in quel periodo. Quindi voi fiorentini avete un approccio da una parte machiavellico, questa folla che si domina, basta comprargli un giocatore, e dall'altro un po' savonarolesco, questa grande, grande speranza nel futuro, nella città, nel... Interessante, interessante. E altrettanto interessante e curiosa è questa rivalità viscerale con la Juventus. E anche qui la cosa è bizzarra, insomma, il Montevarchi come avversari naturali, chiamiamoli così, almeno sul campo da gioco, c'ha ovviamente la San Giovannese perché è accanto a noi, e c'ha l'Arezzo perché più o meno è il capoluogo di provincia, la città più grande, poi c'è tutta una serie di discorsi. Ma a Firenze, ma perché la Juve? Il Torino, la Roma? Vabbè, il Torino di conseguenza è un nostro amico, siamo gemellati proprio per la rivalità con la Juve che ci accomuna. La Juve ha passato anni e anni nella storia a rubare, allora questo me lo conferma mio babbo, insomma, di un'altra generazione, però ha detto per anni e anni se c'era un errore arbitrale era a favore della Juve, era anche oggettivamente la squadra più forte, però era anche aiutata dai favori arbitrali, allora automaticamente tutti noi juventini erano anti-Juve per forza. Poi c'è stato un episodio, mi sembra nell'82, in cui la Fiorentina rischiava veramente di vincere lo scudetto, sai caro? Ah. invece chi l'ha vinto? La Juve, con anche lì, insomma, decisioni arbitrali dubbie, diciamo così. Allora ci fu stampato un adesivo, tutti gli automobilisti a Firenze ce l'avevano, meglio secondi che ladri. Penso da quello da quell'episodio lì la Juve proprio si è guadagnata il titolo di nemico numero uno. Sa, a volte è un po' a senso unico questa rivalità, perché magari uno juventino non ci considera minimamente, perché deve combattere con l'Inter, col Milan, con il Napoli, con squadre un pochino più in su in classifica. Quindi gli succede anche di fare le coppe, sai com'è? Sai com'è? Però c'è rimasta sta cosa e ormai, guarda, non verrà mai meno sta rivalità. un leader della nostra curva chiama la Juventus la Rubentus e non è per la Fiorentina, insomma, quindi effettivamente vedi. E allora come vive uno juventino a Firenze? Ci saranno juventini, no? Ci sono, ma se ne stanno zitti nascosti. Nessuno osa palesarsi, se non in situazioni in cui sanno di potersela cavare con qualche bonaria offesa. Se no ne prenderebbero di brutte le offese. Però ci sono, guarda, si mimetizzano. E poi basta uscire dal comune di Firenze, ce n'è veramente tanti. Però insomma se ne stanno abbastanza zitti. Più ti allontani dal centro di Firenze, più si espongono. Un giorno mio fratello mi disse: dove vai? Non mi ricordo dove andavo. Se... all'Improneta, che poi è vicinissimo a Firenze, no? Ci sono tantissimi tifosi viola all'Improneta. Stai attenta a un covo di gobbi, mi disse, perché ho detto: basta allontanarsi dal comune di Firenze e ce n'è. Si spuntano come funghi quando meno te l'aspetti. Forse è per questo che ai tempi in cui si parlava delle grandi speranze, la Fiorentina aveva meditato di fare stadio e centro sportivo in Val d'Arno a Incisa. Poi ovviamente non se ne è fatto di nulla per tutte le ragioni che in parte abbiamo elencato, sempre perché manca quello e perché manca quell'altro. Comunque, ora la domanda... forse più importante, magari per quelli della nostra generazione, magari per quelli che sono nella nostra condizione adesso, e cioè la Fiorentina e i figli. Come i genitori passano di padre in figlio questa passione? Questa passione si riesce a passarla così com'è? Oppure chi è fiorentino capita che si trovi figli juventini? Secondo me nel 90% dei casi il tifo dei genitori influenza, e insomma nel senso giusto, il tifo dei figli. Però ci sono anche i figli ribelli, che insomma quelli che vanno a studiare belle arti anziché medicina come il padre, no? Che per ribellione, sì. Per ribellione si diventano juventini. E lì non lo so. Però nel 90% dei casi, anche proprio per abitudine, no? In televisione si guarda quella, la partita, perché ora deve sapere che io da tifosa da stadio sono diventata tifosa da poltrona, quindi insomma sono nella fase, la partita me la guardo comodamente seduta. Allora ecco, se un bambino si guarda tutte le domeniche, si vede tutte le domeniche queste maglie viola, gli verrà un po' di curiosità, no? Per queste maglie viola. Se esce a scuola sono tutti fiorentini, esce al bar, vede la tazzina col giglio, insomma è abbastanza certo che venga fiorentino. Ma te l'ho detto, se vuole fare il ribello oppure vuole vincere qualcosa, allora cambia scuola. Vabbè, c'è anche questo. Ma tu hai pensato, ti è capitato di pensare a come ti comporterai tu da mamma? Allora guarda, ci ho pensato. Fino a poco tempo fa ero convinta di indirizzarla bene mia figlia, ma poi, non so, forse ti cambiano un po' anche i valori, no? Crescendo, diventando mamma. A un certo punto, ultimamente, sono arrivata alla conclusione, ma che se ne importa, ma farà quello che vuole, no? Ci sono altre priorità. Quindi, mentre prima pensavo che l'avrei stradata ben bene fin da piccola, adesso penso che la lascerò prendere la sua strada, che sarà quella della Fiorentina, ovviamente. Però deciderà lei, come dice, no, che sport vuoi che faccia tua figlia? Vabbè, deciderà lei. Poi insomma, c'è una mamma pallavolista, io penso che diventerà pallavolista. Vedremo. No, ma anche per fargli frequentare lo stadio. Ma scusa, ma anche agli juventini gli dico sempre: ma te che fai la domenica? Vai a Torino? Cioè da qui parti? No, e noi si va ad Artemio Franchi, è qui. Cioè siamo di Firenze, che vuoi fare la domenica? Devi andare allo stadio più vicino. Cioè proprio un discorso geografico, di identità, un discorso di... non si può prescindere, dai, inutile mi viene a dire ma non vincete mai niente. Quello è secondario. La moglie di un capultrà, quando gli feci la stessa domanda che ho fatto a te, te da mamma, insomma, il marito è in balaustra tutte le domeniche, te da mamma come ti comporti? E lei ha risposto: coi figli come si fa? Si fa male. Per cui lo lascia fare, dice, boh, verrà quello che gli interesserà. E avrà il daspo a 12 anni. Come succede? E allora, su queste parole speranzose, che una Fiorentina, chissà quando, chissà come, riesca a vincere almeno un prosciutto alla Sagra dell'Ocio di Ruscello. Lasciamo gli ascoltatori di Radio Big World e lasciamo Laura. Laura, grazie. A te. Grazie anche ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito fin qui. C'è già degli juventini che hanno messo la tenda qui fuori da Radio Big World. Ora sarà un problema andare a casa finché almeno non gli comincia la partita. Ah no, c'hanno i telefonini, se la guardano sul telefonino. Laura, grazie e grazie a tutti voi. Alla prossima. Alla prossima fiorentinata, direi. Olè Fiorentina! Quanto mi hai preso per il culo?